di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Non sono Irene Zerbini, sono Giulia Crivelli, ma Irene naturalmente verrà dopo di me con il suo spunti di vista, come l'anno scorso, come ormai da più di un'estate. Appunto abbiamo un format diverso, prima la rassegna stampa e poi Irene con la sua trasmissione, gli approfondimenti, e magari a volte prendiamo anche degli spunti da quello che c'è sui giornali. Ma cominciamo quindi dal Corriere della Sera, che oggi titola, torna sulla questione di Roma, e il titolo è Marino in trincea sugli appalti, l'ultimo conflitto, perché oltre alla questione degli scioperi e alle mille interrogativi aperti dall'inchiesta Mafia Capitale, adesso si apre questo nuovo fronte degli appalti. È in programma, ne abbiamo parlato anche nel weekend, un rimpasto di governo, però ci sono gli alleati di governo in Campidoglio, tra i quali SEL, che hanno molti dubbi su questo possibile rimpasto. Sapete che Marino ha perso nel giro di pochi giorni due assessori importanti, quello ai trasporti in prota è quello al bilancio scozzese, quindi il rimpasto ci vuole, o forse alcuni invece alcuni invece auspicano proprio la sciolta, che la giunta si sciolga. Vedremo. Vi segnalo l'editoriale di Aldo Cazzullo, che si intitola Non siamo solo questo. Aldo Cazzullo prende spunto da un articolo del New York Times che abbiamo anche letto durante la rassegna stampa europea, molto della corrispondente da Roma, che parla di tutti i guai di Roma. E poi qui si dice che Aldo Cazzullo parla di un massacro mediatico che da 48 ore il giornale più famoso del mondo sta conducendo ai danni della capitale e del paese. Ecco, io vi invito, perché questo è un po', secondo me, un esempio del nostro tafazzismo, se così vogliamo dire. Non è esattamente così. Sulla New York Times, è vero, ha pubblicato questo articolo, ma i commenti sono anche di lettori del giornale, ma soprattutto di persone che sono venute a Roma, cittadini americani, che non hanno trovato questo degrado terrificante, che hanno comunque apprezzato la grande e inconfutabile bellezza di Roma. Quindi prendiamo un po'... cerchiamo, almeno questo è il mio parere da ormai grande, insomma, forte lettrice dei quotidiani americani, soprattutto online. Prendiamo un pochino, non siamo così provinciali, è vero. E poi ricordate sempre, ma questo lo sappiamo anche noi benissimo qui a Radio 24, tutti quelli che frequentano i social, che poi le persone che protestano sono comunque una piccola parte, magari tutti quelli che non protestano su internet, però perché non vogliono, non hanno niente di cui protestare. Ma in ogni caso, insomma, Aldo Cazzullo si concentra su questo, e il danno d'immagine, per carità, sicuramente c'è, e invita appunto a darsi una mossa per ridare a Roma un'immagine più consona. La fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata alla Libia, perché sono già passati 4 anni da quando è stato abbattuto Gheddafi, ucciso, ma come sappiamo il paese è nel caos. La Libia, 4 anni dopo, un paese di polvere e odio. Il reportage di Lorenzo Cremonesi. La prima pagina di Repubblica ha una fotonotizia diversa, è dedicata alla vittoria della Ferrari, come avete sentito, e non è l'unico giornale che dedica la fotonotizia a questa vittoria nel Gran Premio di Ungheria della Ferrari, che non partiva in pole position ma poi è riuscita a vincere con Vettel, appunto Sebastian Vettel, il pilota tedesco della Ferrari, che ha dominato il Gran Premio di Budapest. L'articolo di Emanuela Audisio, secondo me una delle più brave giornaliste sportive che abbiamo in Italia, e vi leggo le prime righe, poi l'articolo continua a pagina 36, e naturalmente ce n'è anche uno di cronaca. Se non mi piaci ti cancello, ti tolgo l'immagine in diretta, niente Ferrari in testa nei primi 20-25 giri nel Gran Premio d'Ungheria, oscurata la rossa vincente, nessuna ripresa dopo lo scatto al via. Questa è un po' una polemica che vedremo quanti strascichi avrà, lo leggerete anche su altri giornali, e chi ha visto il Gran Premio lo sa, appunto per i primi 25 giri la Ferrari non si vedeva. Il titolo principale però della Repubblica si rifà all'intervista che abbiamo citato ieri, l'intervista data da Joram Gutkeld, il principale consigliere economico in questo momento di Renzi, che ha preso un po' il posto di Cottarelli come commissario alla Spending Review. Ieri ha concesso questa lunga intervista alla Repubblica, che ha andare un po' di brividi per le schiene di molti italiani, e non solo, perché il dato più eclatante è quello annunciato sui tagli alla sanità, che fa sempre un po' paura, questi annunciati tagli alla sanità, perché in Italia abbiamo uno dei sistemi sanitari nazionali migliori al mondo, sicuramente pieno di pecche, pieno di sprechi, Però ecco, intaccare anche questo, e poi naturalmente sappiamo quanto è delicata la materia. La sanità è la spesa, la voce di spesa numero uno del bilancio dello Stato, quindi è chiaro che probabilmente degli sprechi ci sono, però come fare questi tagli è tutto da vedere. E allora il titolo, subito in un decreto, i primi tagli alla sanità, un tetto a esami e visite. Sapete tra l'altro che molte delle questioni sanitarie sono, delle decisioni sulla spesa sanitaria sono decise direttamente dalle regioni, e quindi ci sono anche le prime risposte delle regioni che sostanzialmente dicono: noi in fatto di tagli abbiamo già dato. Ma Repubblica, proprio per dar voce a uno dei maggiori stakeholders della vicenda, ha un'intervista al Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, che dice: i risparmi cercheremo di farli, 10 miliardi sono tanti, questi risparmi devono servire per cure e ricerche. Ma qui mi sto dimenticando completamente, infervorandomi sulla sanità, mi sto completamente dimenticando della viabilità. Scusate a tutti, meno male che Peter me lo ricorda dalla regia, il traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Devo dire che mi piace questo inizio con questa voce femminile, Giulia Crivelli. Grazie per le anticipazioni. Naturalmente continuiamo tra pochissimo a leggere i giornali. Da Irene Zerbini, buona giornata. Vorrei parlarvi del nuovo palinsesto estivo di Radio 24, che prende il via proprio da oggi, perché avremo l'attualità con spunti di vista, questa trasmissione che si snoda poi in diversi passaggi. Alcuni li riconoscerete, siete abituati a conoscerli dagli anni precedenti. Avremo la chiacchierata con il nostro corrispondente straniero, visti da fuori alle 8 e un quarto dopo il GR, e poi avremo tanti temi di attualità e saremo insieme fino alle 10. Vi ricordo che alle 16 ritorna anche Gianpaolo Musumeci con la trasmissione Nessun luogo è lontano, che si affaccia sul mondo, e poi a partire dalle 18 le notizie e i temi della giornata verranno commentati e sviluppati da Alessio Maurizio. In questo caso Si può fare, che sostituisce La Zanzara. Naturalmente ci sono i punti fissi anche durante l'estate, gli appuntamenti con l'informazione ai giornali radio, quelli ci sono sempre. Poi ci sono i reportage, c'è Focus Economia, la giornata economico-finanziaria, ci sono i consigli di cuore e denaro, i temi dello sport, non dimentichiamolo, con tutti i convocati. E ci sono delle storie, sono narrate da Enrico Ruggeri nel Falco e il Gabbiano. Ci sono molte novità, ve le segnalo. State prendendo appunti? Giulia, pensi stiano scrivendo tutto o semplicemente memorizzano? Alle 15 nel sabato e nel fine settimana, queste sono le novità. Alle 15 c'è Chiedimi se sono felice, il mondo visto dalla prospettiva del cane, con Rosita Celentano e Angelo Vaira. E alle 16 Globetrotter 24, questo è un appuntamento con l'Europa e l'Italia che non ti aspetti. E chi lo conduce? Anna Rita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. E poi tante tante novità, insomma, le imparerete man mano ascoltando le nostre frequenze. Giulia, bentornata. Interessanti i giornali, le anticipazioni che ci hai già fatto oggi, tra pochissimo ci torniamo. Voglio solo dirti che, allacciandoci proprio alla questione romana, ma non solo, perché ormai il degrado, se vuoi, delle città, le città a due velocità, con alcuni quartieri messi in un certo modo e altri praticamente inaccessibili, è un tema un po' trasversale, un po' globale. Ce ne occupiamo anche a spunti di vista oggi, e rifacendoci proprio all'appello che tu hai sottolineato di Gassman, ce lo ricordi? Sì, Alessandro Gassman, che è romano doc, credo che viva a Roma da sempre, appunto ha lanciato questo hashtag su Twitter, Roma sono io, invitando, un po' come hanno fatto i milanesi dopo le devastazioni dei Black Bloc, quando c'è stato qui il G8 all'Expo, ha invitato tutti i romani a prendersi sulle spalle, sulle proprie spalle, un piccolo pezzo di responsabilità per tenere Roma più pulita, o meglio per pulire Roma, che magari loro non hanno sporcato, e ha avuto molto successo questo appello. Tra l'altro parlavi di corrispondenti stranieri, sulla stampa c'è proprio un piccolo sondaggio tra i corrispondenti stranieri che purtroppo, insomma, devono ammettere, anche quelli che sono innamorati di Roma, e lo sono tutti probabilmente, che la città ha dei problemi. Ma rimane la più bella del mondo. Esatto, io sottolineo, non d'Italia, ma del mondo proprio. 7:22 e vi chiediamo, visto che ha suscitato anche critiche questo appello, secondo voi è giusto? La città deve essere partecipata al punto che, se serve, siamo noi a imbracciare ramazze e quant'altro e a pulircene un pezzo? O questo è, come hanno detto alcuni, l'arrendersi alla mancanza dello Stato, alla mancanza delle istituzioni, al fatto che le nostre tasse non servono a niente e vadano sempre a rimpinguare appalti quantomeno deviati, corruzione e non i servizi. Voi sareste disposti a prendere parte a questa pulizia nella vostra, ovviamente, città? Non che adesso organizziamo i pullman per andare a Roma, Giulia, ci mancherebbe, però questo tema della partecipazione è incrociato anche al tema della sicurezza. Ne discuteremo spunti di vista. Ti lascio a questa interessantissima rassegna stampa e continuiamo con te dunque la lettura dei quotidiani. Grazie Irene, tanto ormai tra pochissimo la risentirete. Spero veramente che in questo lasso di tempo date il vostro parere, perché è una cosa che in Italia forse non è così diffusa, lo è di più all'estero, questa di prendere appunto un ruolo molto attivo come cittadini attivi, e credo che insomma male non possa fare. Poi è vero, paghiamo tante tasse, avremo diritto di pretendere molto per queste tasse, però le città oggettivamente hanno bisogno forse del nostro contributo. Dicevamo della grande questione della sanità, la sanità prima voce di spesa del bilancio dello Stato, e poi l'altra grande voce di spesa è naturalmente la spesa pensionistica. E allora il titolo del Sole 24 Ore del lunedì: casse, conti sotto stress, un'indagine del Sole 24 Ore, una rilevazione del Sole 24 Ore su tutti gli enti pensionistici che sono stati privatizzati negli ultimi anni e su come vanno i loro bilanci. Un'analisi di Maria Carla De Cesari, la necessità di allenarsi alla trasparenza, perché naturalmente bisogna, come non era in passato, che questi enti, ma lo deve fare anche l'INPS naturalmente, che non è uno di quelli privatizzati, è quello pubblico per eccellenza, ci spieghino esattamente appunto come stanno i loro conti e soprattutto qual è la situazione ogni giorno, se lo desideriamo, della nostra pensione, quanto prenderemmo in questo momento di pensione. Avete sentito anche nella controcopertina il servizio di Michela Cappellini, che trovate poi tutte le informazioni complete sul Sole di oggi a pagina 8, con questa classifica appunto dell'export, con l'Italia che è sul podio europeo, perché giochiamo alla pari con la Francia, però siamo ancora dietro alla Germania. Con il Sole 24 Ore di oggi anche l'esperto risponde, e forse gli interrogativi che sono più interessanti da leggere riguardano le assicurazioni di viaggi, quindi le coperture per incidenti nei viaggi oltre frontiera, tutte le risposte. Ma anche per quanto riguarda invece il tema del risparmio in famiglia, carburanti low cost, consigli pratici anche da internet per ridurre il costo del pieno, un'altra spesa che si affronta quando si va in vacanza molto spesso. Il Messaggero naturalmente titola su Roma, in questo caso Marino assediato, conti a rischio, abbiamo detto dell'uscita dalla giunta dell'assessore al bilancio scozzese, il sindaco vorrebbe sforare il patto di stabilità, perché sapete che c'è un patto di stabilità non solo per l'Italia, cioè in generale come paese per il bilancio dello Stato, ma anche per i bilanci delle città e delle regioni. C'è grande lavoro per questo rimpasto di giunta atteso per domani, ma ci sono anche ancora molti dubbi. Torniamo sulla questione degli scioperi, questo lo trovate anche su altri giornali, perché adesso ci sono i numeri crudi e si conferma, come abbiamo visto anche ieri nell'articolo che abbiamo citato di Mattia Feltri sulla Stampa, l'Italia è il paese degli scioperi. Record nei servizi pubblici, il primato è italiano, nel 2014 sono state proclamate 2.084 astensioni dal lavoro. La fotonotizia del Messaggero però è dedicata alla Grecia e raffigura Tsipras, il premier greco Tsipras, con Mario Draghi, governatore della BCE, perché in realtà oggi era attesa la riapertura della borsa di Atene, che invece slitta ancora, quindi insomma ci sono ancora, evidentemente un segnale che ci sono ancora tanti problemi da risolvere prima di riavviare la vita economica, micro e macroeconomica della Grecia alla normalità. La Stampa titola sugli scioperi: verso il giro di vite, mai più Pompei e Fiumicino, perché è all'esame e sarà a settembre in commissione al Senato una proposta firmata da Sacconi e Ichino. Sacconi è ex ministro del welfare, Ichino sapete, il jus lavorista eletto nelle file di Scelta Civica, e l'idea è di che ci saranno queste proteste, saranno una delle idee in questo decreto che appunto verrà forse esaminato in settembre, è che per esempio soltanto con il 51% dei consensi degli iscritti al sindacato scatti la protesta. Vedremo insomma, perché sicuramente adesso è un fatto di cronaca, speriamo che questa questione degli scioperi che affligge l'Italia da innumerevoli anni in modo così anomalo sia finalmente risolta. La fotonotizia della Stampa naturalmente dedicata alla vittoria della Ferrari, riscatto Ferrari, Vettel domina in Ungheria. Il Giornale titola su una notizia che abbiamo dato ieri, che è questa idea circolata a Francoforte e a Bruxelles di una nuova struttura europea voluta da Schäuble per occuparsi di fiscalità a livello europeo. Il Giornale è molto critico verso questa proposta e titola "Una tassa per far tornare Monti". Il senso di questo titolo è appunto: l'Europa affida una missione al professore, creare un fondo dell'Unione Europea con i soldi dei contribuenti per appunto cominciare ad avviare una sorta di unione fiscale. L'editoriale di Piero Stellino, il pugno duro sul ceto medio, è una critica a Renzi molto dura, soprattutto su questa, anche qui una notizia che abbiamo letto nei giorni scorsi, su una ipotetica reintroduzione della tassa di successione. E poi continua l'iniziativa estiva del Giornale di pubblicare ogni giorno una lettera d'amore, magari non famosa, ma o di uno scrittore o di un altro personaggio famoso. Oggi tocca niente po' di meno che al poeta John Keats, che scrive alla sua amata, una delle sue amate nel corso della sua vita, questa si chiamava Fanny, mia dolce Fanny, sei il mio miele, vorrei essere un martire per te. E il commento a questa lettera è affidato a Belen Rodriguez: banale, romantica, respiro la tua aria. Ma in fondo, ma perché no? Cioè mischiare così, insomma, che Belen Rodriguez commenti un grande poeta come John Keats, ma in tema d'amore credo che non ci siano né qualifiche particolari che ci rendono più autorevoli di altri. Quindi perché no? Benissimo anche questo accostamento. Ci lasciamo un attimo per il meteo e ci ritroviamo subito dopo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ed eccoci ancora, buongiorno ancora da Giulia Crivelli. E visto che appunto dopo di me verrà Irene, che come vi ha annunciato parlerà anche di questa iniziativa di Alessandro Gassman lanciata su Twitter con l'hashtag Roma sono io, la prima pagina dell'Unità è proprio dedicata a questo. Il titolo è "Riprendiamoci la città" e con questo tweet di Gassman "Tanti romani in strada a pulire". Ecco, mi sembra poi un po' bizzarro che in tutto questo, in questa prima pagina dedicata a questo, con tanto di editoriale del direttore, che si è Erasmo D'Angelis, il direttore dell'Unità, uno scatto d'orgoglio, non si parli della Giunta Marino, che comunque se ne parla ma dentro nel pezzo, non c'è nel titolo, che in realtà è l'altro grande fatto di cronaca. Ma comunque va benissimo che ci sia spazio per questa iniziativa. Tra l'altro Irene vi ha invitati a inviare le vostre opinioni, stanno arrivando tanti sms su questo tema, la maggior parte di chi manda gli sms sembra favorevole a questa iniziativa. La fotonotizia poi dell'Unità è dedicata alla Ferrari: la Ferrari è tornata, Vettel è il suo profeta. E poi vi segnalo un sondaggio esclusivo fatto dalla società SVG per l'Unità sulle unioni civili. Da questo sondaggio, e la domanda principale è giusto una legge sulle unioni civili, emerge che il 70% degli intervistati risponde di sì e il 30% di no. Quindi le altre risposte le trovate poi a pagina 2 e 3 dell'Unità, riguardano per esempio la seconda: si è frenato sulle coppie gay, più ostilità verso il matrimonio. La domanda: secondo lei sarebbe giusto che venisse fatta una legge per il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso? Il 55% risponde di sì, il 45% risponde di no. E poi per quanto riguarda le adozioni alle coppie gay, solo il 34% dice di sì. Poi c'è la questione del referendum, l'altra domanda: l'Irlanda con un referendum ha introdotto le nozze tra omosessuali, secondo lei sul tema delle nozze gay si dovrebbe fare anche in Italia un referendum? Il 49% delle persone interpellate dalla SVG ha risposto di sì, il 38% ha risposto di no, il 13% non so. La prima pagina del Fatto Quotidiano torna sull'altra questione di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, cioè questa proposta di legge per regolare le intercettazioni, un po' legata sicuramente a tutta la questione Crocetta, ma di intercettazioni e di come vanno regolate, se vanno regolate, e della loro pubblicazione soprattutto si parla da tantissimo tempo, lo sapete tutti. E in questo caso il Fatto Quotidiano ha intervistato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gratteri, che dice sarebbe fare una stretta sulle intercettazioni, proibirle o proibirne la pubblicazione, sarebbe un regalo ai boss. L'altra grande notizia che spicca sulla prima pagina del Foglio è il ricordo di Hiroshima, ce n'erano tanti anche ieri sui giornali, manca ancora qualche giorno in realtà a questo anniversario, perché le due bombe su Hiroshima e Nagasaki furono sganciate, le due bombe atomiche naturalmente, furono sganciate il 6 e il 9 agosto del 45, però insomma è abbastanza un costume diffuso che si anticipa sempre l'anniversario per magari battere sul tempo i concorrenti. Comunque tutti i giornali hanno dedicato grandi approfondimenti alla Hiroshima, ai fatti storici e poi a tutto quello che è successo in questi anni. Oggi appunto le due pagine scelte dal Foglio, intitolate «Quando il sole di Hiroshima bruciò le nostre coscienze». Dicevamo della sanità e di come le regioni sono direttamente coinvolte, e allora vi cito il Secolo XIX, che è uno dei giornali che abbiamo in mazzetta, il principale quotidiano della Liguria, che titola proprio su questo: sanità ligure a rischio stangata, è stato scoperto un buco di 70 milioni e il neo governatore Toti ha promesso non alzerò le tasse per coprire questo buco. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, come potete immaginare, dedicata al mago Vettel, Ferrari in trionfo in Ungheria dopo una partenza da urlo, e poi la sottolineatura che Vettel ha dedicato questa vittoria a Jules Bianchi, il pilota morto dopo 9 mesi di coma la settimana scorsa. Vi segnalo anche il foglio del lunedì ha un colore diverso dal Foglio normale, è rosa quasi come il Sole 24 Ore, ed è una selezione di quello che secondo la redazione del Foglio, il suo direttore Claudio Cerasa e il suo fondatore Giuliano Ferrara sono gli articoli migliori della settimana precedente. L'approfondimento è sempre concentra tutte le tante citazioni da tanti giornali diversi, da tante fonti diverse su un tema, e qui è quella affascinante scoperta di Kepler 452b, che sarebbe un pianeta a 1400 anni luce da noi, che però sarebbe molto simile al nostro. Allora il titolo: un'altra Terra è possibile. Naturalmente la grande sfida è capire se veramente c'è vita su questo pianeta, poi raggiungerlo, visto che dista 1400 anni luce, vedremo, insomma. Io credo che non lo vedrò, ma magari le prossime generazioni sì. Passiamo un po' alle pagine interne, ci sono tantissimi approfondimenti. Abbiamo visto il sondaggio sull'unità, sulle unioni civili, che darebbe la maggioranza degli italiani favorevoli alle unioni civili, e allora c'è un'intervista sul Corriere della Sera all'ex ministro per la giustizia Nitto Palma, che oggi è senatore di Forza Italia ed è anche presidente della Commissione Giustizia, e sapete che c'è un disegno di legge all'esame del Parlamento sulle unioni civili, però dice Nitto Palma si rischia di slittare a ottobre. Sapete che dopo il referendum in Irlanda, che appunto ha aperto non solo alle unioni civili ma proprio ai matrimoni tra omosessuali, c'è stata un po' un'accelerazione, se non altro, della discussione, però appunto secondo Nitto Palma in realtà l'iter poi legislativo potrebbe essere più lento di quanto auspicato da più parti. Dicevamo della questione greca, a pagina 12 del Corriere della Sera trovate questa notizia dello stop della BCE alla riapertura della borsa, e poi un reportage da Bruxelles di Francesca Basso, che riporta le parole pronunciate ieri dal nostro ministro dell'economia Padoan, che sostiene questa unione fiscale, che potrebbe essere uno dei tanti temi della riforma della governance dell'Unione Europea, e secondo Padoan serve proprio per proteggere l'euro. Vi segnalo la fotonotizia di questa pagina, perché riguarda non più la Grexit ma la cosiddetta Brexit, di cui abbiamo parlato tanto durante le rassegne stampa europee. La Gran Bretagna non è nell'euro, quindi non si tratta di uscire dall'euro in questo caso, ma di uscire proprio dall'Unione Europea. David Cameron, che ha vinto le ultime elezioni con una larghissima maggioranza, aveva promesso un referendum sulla, appunto, la permanenza nell'Unione Europea della Gran Bretagna, l'aveva promesso per il 2017 e adesso lo ha anticipato ufficialmente al 2016. Sempre dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo un altro approfondimento, perché domani c'è quello che viene definito il click day, cioè sono le assunzioni nella scuola. Le domande vanno presentate soltanto online e entro il 14 agosto. Va espressa questo articolo di Eugenio Bruno a pagina 5 del Sole 24 Ore, spiega tutti i dettagli, cioè esattamente tutti i passaggi della procedura per partecipare con successo a questo click day, per esempio sul fatto che la preferenza va espressa diversa per tutte le province. Gli iscritti alle graduatorie a esaurimento e vincitori e idonei al concorso del 2012 sono tutti quelli che possono partecipare a questo Click Day, che è appunto un esempio di informatizzazione totale, perché anche l'accettazione o il rifiuto del posto vanno comunicati soltanto via internet. Poi vi dicevo le due pagine di approfondimento sul commercio estero, che sono a pagina 8 trovate questa, appunto, questa gara, e poi tre approfondimenti di Gerardo Pelosi agli ambasciatori, perché sapete che c'è stato negli ultimi anni un cambiamento del ruolo degli ambasciatori, che da, diciamo, semplici così rappresentanti diplomatici devono avere, anche per le nuove regole, un ruolo più attivo nell'aiutare le aziende che vanno all'estero e fanno riferimento alle ambasciate locali per radicare il loro business in loco. Come sempre al lunedì il supplemento lavoro e carriere, in questa settimana ci si concentra sul settore delle telecomunicazioni, tema delicato perché sapete che proprio settimana scorsa la Telecom ha annunciato che ci saranno degli esuberi e non delle assunzioni come era stato annunciato prima, però in realtà ci sono altre aziende che assumono, da Tiscali a Fastweb, le società di TLC in cerca di talenti. Sono 1000 i posti di lavoro nelle società di telecomunicazioni. C'è proprio, come sempre in questo supplemento lavoro e carriere, c'è un'analisi proprio con i numeri e naturalmente tutti i riferimenti per eventualmente mandare un curriculum o approfondire, per chi fosse interessato, di che tipo di posizione si tratta. Torniamo su un'altra questione di cui abbiamo parlato nel weekend, perché sapete che una sentenza della Cassazione ha detto che non è che anche le chiese cattoliche devono pagare la tassa sui loro edifici, l'ICI, quindi l'equivalente dell'IMU, la tassa sulla casa. La CEI ha reagito molto duramente e la questione verrà esaminata, ha fatto sapere Matteo Renzi, con un tavolo ad hoc, perché come ho detto si tratta di una sentenza della Cassazione, non c'è un intervento ufficiale del governo o del Parlamento, quindi adesso però questa questione va affrontata, perché sappiamo bene che una volta che interviene la Cassazione poi apre la questione, che va affrontata in un altro modo, non a colpi di sentenze. E allora il titolo dell'articolo di cronaca: mossa del governo, eviteremo squilibri, però c'è di fatto in atto già in questi due giorni che sono seguiti alla sentenza della Cassazione, uno scontro tra laici e cattolici. E così Repubblica intervista Domenico Messinese, che è da poco sindaco di Gela, eletto nelle liste del 5 Stelle, e che sostiene che questa norma sarebbe giusta: l'istruzione deve restare pubblica, i privati, anche se è la Chiesa, devono pagare. Invece Matteo Ricci, vicepresidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, bisogna evitare il rischio di chiusura, cioè se questo pagare l'ICI mettesse a rischio i conti di queste scuole cattoliche sarebbe un gravissimo danno. Il titolo dell'intervista: quegli istituti sono parte del welfare, non vanno tassati. Due focolai di guerra che si sono purtroppo riaperti e a cui dà molto spazio Repubblica. Uno in Turchia, perché sapete che Erdogan ha aperto le sue basi agli Stati Uniti per bombardare le basi o le postazioni dello Stato Islamico, e però in questo ha preso anche più libertà nel contrastare il PKK, il partito dei lavoratori curdi. E allora ieri ad Ankara ci sono state grandi proteste, barricate contro Erdogan, basta bombe sui curdi, e a Istanbul è stato anche ucciso un agente. Altro focolaio di guerra a Gerusalemme, qui ce lo racconta Alberto Flores d'Arcais, sempre su Repubblica, ma lo trovate anche su altri giornali. Blitz israeliano sulla spianata, militari in moschea, scontri e arresti. Ci sono stati sassi contro gli ultra ebrei, la polizia ha inseguito i palestinesi fin dentro la grandissima e bellissima moschea di Al-Aqsa, e la replica naturalmente dei palestinesi è stata: violata un luogo sacro. Quindi speriamo appunto che finisca un po' qui, che sia un episodio singolo. Però per esempio in un'intervista che Anna Lombardi ha fatto allo scrittore Assaf Gavron, lui spiega: certo, è colpa dei fanatici di entrambe le parti che tengono in ostaggio i nostri popoli, perché a volte appunto bastano magari per scatenare queste proteste e poi magari anche scontri che provocano morti e feriti, bastano pochi appunto fanatici. Dalla stampa vi segnalo un approfondimento su Roma, perché sapete che a Roma quest'anno c'è anche il giubileo, quello straordinario indetto da Papa Francesco, e allora Giacomo Galeazzi ci spiega: il caos Roma minaccia il giubileo, a 4 mesi dalle celebrazioni fermi quasi tutti i 100 cantieri. E poi c'è un intervento di Rutelli, ex sindaco di Roma, che era sindaco quando c'è stato il grande giubileo di Roma, quello del 2000, che dice: non è stato fatto nulla. E poi vi dicevo i corrispondenti esteri interpellati, dalla Francia Eric Joseph, dalla Germania Tobias Spiller, dalla Spagna Antonio Pelaio, dall'Inghilterra James Politi, che appunto raccontano la loro Roma. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Questo tema scelto da Irene, vedete che torna e ritorna. Abbiamo appena detto che proprio sulla stampa 4 corrispondenti esteri raccontano la loro Roma e naturalmente gli innegabili disagi e disfunzioni che si sono un po' forse ancora aggravate negli ultimi mesi. Per esempio appunto Eric Joseph dalla Francia dice: corruzione e malgoverno, manca la linfa vitale. Eric Joseph è corrispondente per Liberation. Tobias Spiller, che scrive invece per la Frankfurt Allgemeine Zeitung, dice: non avete un progetto a lungo termine. Antonio Pelaio, che è di Antena 3 TV, una televisione spagnola, dice: troppo clientelismo e trasporti disastrosi, come dargli torto. E dall'Inghilterra James Politi, che scrive per Financial Times, dice: una città fantastica, non tutto è perduto. E passiamo invece restiamo sulla stampa, ma passiamo al viaggio del presidente Obama in Kenya. È la prima volta che Obama va in Kenya, dove sono le sue radici. In realtà Kenya e il viaggio in Africa comprende anche l'Etiopia. Ieri ha parlato apertamente delle discriminazioni che ancora esistono in moltissimi paesi africani contro le donne e naturalmente anche delle violenze fisiche. E quindi il titolo scelto per l'articolo scritto da Paolo Mastrolilli, che è inviato a Nairobi per la stampa: liberate le donne, crescerete di più. Obama vuole cambiare la sua Africa. C'è stato un vero e proprio bagno di folla ieri a Nairobi. Tra l'altro su Twitter è divertente vedere che tutti i nati in questi giorni, molti dei nati in questi giorni, sono stati battezzati Obama, uno addirittura Air Force One, in onore insomma del viaggio di Obama nel suo Kenya, o meglio nel Kenya dove ci sono le sue radici. Dalla stampa una storia bellissima di questa ragazza, Narita Amoroso, che è laureata a Napoli in scienze politiche e viene definita l'italiana che ha battuto Angela Merkel, perché il Parlamento europeo ha accolto, la Commissione dell'Unione europea ha accolto la sua petizione che lei aveva fatto, perché i tedeschi avevano deciso, insomma anche loro qualche problema di bilancio, i bilanci dello Stato sono sempre a corto di fondi, avevano deciso di far pagare le autostrade agli stranieri. Sapete che in Germania le autostrade sono gratis. E è stata appunto questa giovane laureata in scienze politiche, è andata a fare un po' la zecca garbugli e alla fine la Commissione europea le ha dato ragione. E quindi la Germania, che aveva previsto questo pedaggio per gli stranieri, è stata sconfitta. Dal Messaggero un approfondimento su una questione che ci siamo un po' persi per strada, ma che è sempre sul tavolo delle riforme, che è quella delle aziende partecipate. Sapete, un grande money pit, come dicono gli inglesi, cioè un buco che assorbe denaro e spesso tutta spesa improduttiva, visto che stiamo così tanto parlando di spending review e si pensa sempre di tagliare quella che viene definita la spesa improduttiva. Ecco, il bilancio che viene fatto dal Messaggero è che ci sono pochi risultati dai piani di riassetto chiesti agli enti locali e ora il governo punta su decreti attuativi che verranno inseriti nella riforma della pubblica amministrazione. È decisiva in questo riordino delle partecipate il ruolo dei comuni. Allora parla un altro esponente dell'ANCI, prima abbiamo visto il vicepresidente Ricci: nell'immediato è difficile ridurre la spesa, serve più chiarezza sugli obiettivi. Quindi, come un po' voleva si dimostrare, tutto rimandato. Dal giornale vi segnalo un bel articolo di Luca Doninelli sulla questione di quell'efferatissimo omicidio della tabaccaia di Asti. Sapete che Maria Luisa Fassi, il killer Pasqualino Folletto, è stato catturato e anche già confessato, ma Luca Doninelli ci racconta, torna su questo fatto di cronaca e dice: la tragedia che si trasforma in solidarietà, perché i genitori della tabaccaia uccisa si sono offerti di pagare le cure alla figlia malata del killer, una generosità che apre a un mondo diverso dai valori cristiani, se un gesto spegne la violenza. Un altro approfondimento interessante del giornale nel supplemento Controcorrente è dedicato al cosiddetto reshoring, che è una tendenza in atto da qualche mese che registrano gli economisti e che riguarda le aziende che avevano deciso di delocalizzare all'estero la produzione per risparmiare sui costi del lavoro, sui costi di energia, sui costi in generale, però quando poi a volte si accorgono che ci sono altri costi più o meno chiari che comunque controbilanciano la situazione. E allora il titolo: a volte ritornano auto, abbigliamento, ma anche gioielli e tonno. Dopo la grande fuga, le aziende fanno dietro front perché produrre all'estero non conviene più e perché la nuova sfida è la qualità made in Italy. Due pagine appunto di approfondimenti sul giornale, un'inchiesta, pagina a copertina di Controcorrente, pagina 11 e poi le pagine 12 e 13. La questione crocetta che ha dominato i giornali, i media, i social media, internet, televisioni, le radio, poi oggi era sparita dai giornali. Però sul Fatto Quotidiano c'è un lungo intervento di Nando Dalla Chiesa collegato a questa questione, i professionisti della mafia che non invecchiano mai, perché sapete che insomma si parla sempre, ci sono sempre le polemiche su come vengono trattate le emergenze legate alla mafia. E allora Nando Dalla Chiesa ripercorre anche tanti omicidi eccellenti e spiega che comunque qualsiasi siano poi i fatti di cronaca, mai, mai, mai abbassare la guardia, perché pronunciare anche solo sottovoce la frase la mafia non esiste o la mafia è in difficoltà, perché in realtà poi la mafia e le criminalità organizzate in generale in Italia non sono in difficoltà, manca ancora molto la sostanza dell'articolo di Nando Dalla Chiesa per considerarle anche solo in parte sconfitte. Abbiamo ancora qualche minuto, allora passiamo, volevo segnalarvi magari articoli un pochino più leggeri, non proprio di stretta cronaca. Mi ha colpito per esempio molto una vicenda raccontata solo dal secolo XIX che riguarda un leone, uno stupendo maestoso leone dello Zimbabwe, si chiama Cecil, che è stato ucciso da un bracconiere. E allora il titolo: bracconiere uccide Cecil, il re leone dello Zimbabwe, era il simbolo di questo grande parco dello Zimbabwe, aveva 13 anni, è stato ucciso con una freccia, pensate, appunto da un bracconiere. Però la vicenda è anche lo spunto per parlare di questa piaga dei bracconieri, ogni anno centinaia di trofei portati in Europa. Vi segnalo dal Foglio, che vi dicevo raccoglie il meglio della stampa, non soltanto dei quotidiani della settimana precedente, il meglio naturalmente secondo il suo direttore. E c'è un articolo che non abbiamo visto sui giornali quotidiani perché è stato pubblicato da GQ, il mensile, ed è un incontro di Francesco Merlo, che è un giornalista che scrive per Repubblica, però poi appunto scrive anche per GQ, un pranzo con Francesco Piccolo, lo scrittore, il più talentuoso, viene definito, degli scrittori, che tra l'altro è anche sceneggiatore, per esempio dei film di Nanni Moretti, e viene, il titolo del pezzo è Il poeta della banalità italiana. Vi leggo, visto che abbiamo parlato di Sicilia e anche di Sciascia, o meglio non ne abbiamo parlato ma ne parla Nando Dalla Chiesa nell'articolo che vi dicevo, l'ultima parte dell'articolo di Francesco Merlo. Con Piccolo parliamo di Sciascia, che coccolato dalla società letteraria divenne un bastian contrario, come raccontato nel suo Candido, quando tornando una sera da quelle riunioni disse: e se fossero soltanto degli imbecilli? E fu il principio della liberazione e della guarigione. E il tuo futuro? Chiede Francesco Merlo a Francesco Piccolo. Non lo so, non lo escludo. Se è così, il tuo bel talento, che è forte ed evidente, non ha ancora prodotto il grande libro o il grande film, quello che sul retro non ha data di scadenza. E Francesco Piccolo risponde: la prendo bene come un augurio. Vi segnalo dalle pagine interne del Corriere della Sera un approfondimento su una nuova edizione del diario di Anna Frank, che in realtà contiene anche di Pietro Citati, che in realtà contiene anche altri scritti di Anna Frank, non soltanto il diario. Le due anime di Anna Frank: era insolente e dolce, irrequieta e mite, per lei Dio si identificava con la natura. È un po' forse per molti di noi il ricordo di una lettura alle medie o al liceo. In questa nuova edizione è l'occasione per rileggere, no? Come diceva Calvino, i classici sono quei libri che vanno sempre o che si possono sempre rileggere, e poi naturalmente anche per scoprire magari un lato di Anna Frank che non conoscevamo. L'ultima segnalazione che ho tempo di farvi prima di dare la parola a Irene, che ancora vi ricorda un po' quello di cui poi vi parlerà tra pochi minuti, è un bellissimo reportage di Giampaolo Visetti da Pechino, che ci parla di quella che in realtà sarà la Jing Jing Ji, cioè la Super Pechino, perché secondo la tradizione un po' di un paese che ancora adesso si definisce comunista, c'è questa grande programmazione e appunto dovrebbe nascere questa megalopoli più grande di tutti i tempi, pensate, 130 milioni di abitanti sparsi su 100.000 chilometri quadrati, ospiterà il cuore dell'impero cinese, addio Shanghai, non tornerà mai più capitale, ed è già in costruzione, collegata con treni missili e fondata sull'high tech. L'obiettivo è chiaro, diventare la capitale del mondo. Ecco Irene, se vuoi. Su quale testata si trova Repubblica, questa? Repubblica, Giampaolo Visetti, che sulla Cina scrive sempre delle cose, insomma la conosce ormai molto bene, quindi ci racconta anche cose che magari davvero si sanno solo se si abita lì e se si frequentano molto, con molta passione e cura i media locali e le autorità locali. E così si scoprono delle cose che magari non vorrebbero, i cinesi non vorrebbero neanche che a noi occidentali fossero già chiare arrivassero. Comunque c'è un libro, si chiama Le città globali, che parlava proprio di quello, era scritto dalla dottoressa Sassen, Saskia Sassen, una sociologa, un'economista olandese, e parlava di queste città internazionali che sempre di più proliferano. Ora, senza arrivare a 130 milioni di abitanti, avevi detto? Sì, 130 milioni, cioè un terzo praticamente degli abitanti degli Stati Uniti di oggi. Senza arrivare a quelle cifre dal punto di vista demografico, c'è da interrogarsi, perché la proliferazione delle città globali in sé è un fenomeno preso in esame anche dall'Economist, visto che la maggioranza della popolazione urbana, a differenza di quanti molti sospettano, vive ancora in della popolazione mondiale, scusate, vive in agglomerati urbani, non è disseminata sul territorio. Ebbene, possono continuare le città a crescere senza necessariamente diventare una fucina di diseguaglianze, per esempio tra chi può permettersi un affitto in centro e chi invece è costretto a vivere fuori, molto fuori, anche per ragioni economiche, e a tranciare una buona fetta del tempo che ha a disposizione per il pendolarismo. Ma questo è solo uno degli elementi. Parleremo proprio della nascita di queste città globali e della partecipazione, quanto la partecipazione rende più sicura una città. E secondo voi è giusto l'appello lanciato, era sui giornali di oggi, ne hai parlato anche tu, per esempio da Gassman, a Roma, ma potrebbe riguardare qualunque centro urbano. Partecipare, ci sono problemi, in questo caso i rifiuti, oltre a una serie di altri che non stiamo ad elencare in questo momento. Prendiamo la nostra responsabilità di cittadini, facciamo la nostra parte, ramazza, scopa e puliamo il nostro pezzo. Giulia, tu saresti disposta? Sei la prima a cui pongo la domanda. Sì, assolutamente. Tra l'altro è arrivato un messaggio che dice: in Germania ciascuno è responsabile del proprio pezzo di strada, se non lo fa viene multato. Peter ci fa segno, basta. Sì, ne parleremo dopo il GR, naturalmente a spunti di vista. Linea alle news.